so che in te il tempo si è fermato, sì lo so che tu sei bella da morire ed io dovrò di più restare a farmi male tutti i giorni senza te. Verrei con te persino in capo al mondo, lo farei perché la tua vitalità dentro di me ed io sarei un uomo vero e realizzato accanto a te. Certo che lo so, parlerò con te stasera. Certo che lo so, certo che lo so. Mi risponderai di sicuro che non mi ami. Certo che lo so, certo che lo so. E che vuoi vivere da sola, non vuoi nulla che si leghi a te. Avrò, dovresti dare il mondo, io ti avrò, ti avrò per te, andrei pure all'inferno, userei, lo sai, sistemi maledetti per averti, lo farei, perché sei tu la sola ed unica ragione mia, per me, per te, per lui, per gli altri che sarà di me, se un altro uomo riesce a dominare il cuore tuo. Certo che lo so, stare senza te fa male. Certo che lo so, certo che lo so. Certo che dovrò vivere di più, amore. Certo che lo so, certo che lo so. Amore mio, dovrei vivere qualche anno in più. Certo che lo so. Certo che lo so. Certo che lo so. Mi risponderai. Certo che lo so. Certo che lo so. E che vuoi vivere da sola, non vuoi nulla che si leghi a te.